Non vengono. Non vengono, eh? No, hanno avvisato adesso. Non ti rispettano più. Chi non mi rispetta? Tutti. Non ti rispettano, non vengono a trovarti. E perché sarebbero venuti? È il tuo compleanno, ma per farti gli auguri, per rispetto. Dovevano venire o no? È il mio compleanno. Non ti ricordi più nemmeno il tuo compleanno? Non vengono per il mio compleanno? No, no, hanno avvisato adesso, no. E il rispetto? Dove l'abbiamo messo il rispetto? E l'anno prossimo sarà ancora peggio, preparati. Oh, l'anno prossimo non esiste. Esiste solo adesso che è già finito. E adesso che è finito, è tutto finito. No, no, no, no, non serve. Proviamo a festeggiare comunque, eh? Se ne accorgeranno se lo facciamo. E devono venire a salutarti, no? Ma perché devono venire? Perché è il tuo compleanno! Oggi è il tuo compleanno! Oggi? Allora prepariamoci! Verrà gente a trovarmi! La famiglia viene! No, no, hanno avvisato adesso, no! Il rispetto... Dove l'abbiamo messo il rispetto? Hai ragione tu. È tutto finito, eh? Dove sono le luci? La gente in processione per venire a salutarti come si salutano i santi, dov'è? Dov'è? Da nessuna parte. È tutto finito. Ma le cose finiscono, ma poi ne cominciano sempre altre. Lo vedi il giorno come fa? Se ne va e poi ne viene un altro. La cosa importante è svegliarsi quando arriva quello nuovo. La cosa importante è rimanere vivi. Non a tutti i costi, non per forza. Solo chi rimane vivo ha ragione. Ricordati. Ma io perché perdo tempo a parlare con te? Ma perché mi stai sempre appresso? Chi sei tu? Tu non devi dimenticarlo mai, chi sono io? Chi sei? Io ero tua moglie! Eri? Sì! E poi che è successo? Poi tu sei morto! Morto? Io? Ah, non mi sembra... Perché dici che sono morto? Perché almeno mi lasceresti libera! Tu devi smetterla e toglierti di mezzo, perché la morte è più dignitosa di questa imitazione di vita. Tu sei morto, io mi sento morta come te, io mi sento un pezzo di niente appeso al niente che sei diventato. Mi dispiace. Questo è il massimo che io posso fare. Maestà! Maestà! Con tutto il rispetto, maestà! A me! E a voi, sicuramente, maestà! Chi siete? Giustamente, come fate a ricordarvi chi sono io? Io sono Polonio. Qui accanto c'è vostro fratello, Claudio. Che gli è successo a mio fratello? È muto! No, io parlo, non sono muto. Parli? E che dici? Con chi parli tu, eh? A chi dici quando parli? Lo sai che i muti vivono di più? Chi siete? Ma come chi siete? Perché state qua? Non ti ricordi? Io non devo ricordare niente e voi state bene attenti a quello che io vi dico. Chi siete voi? Nessuno, state tranquillo, Polonio mi chiamo, ma non fa niente. Qui c'è vostro fratello, però. Questo è mio fratello? Sì, sì. Perché siete venuti? Per vedere come ti senti. Ah. E come mi sento? Non mi sembra che tu ti senta meglio. Sto bene. Ho solo un peso qua in mezzo al petto, ma quello non è niente, è stanchezza. Oggi è il tuo compleanno, te lo ricordi? È il mio compleanno. Il tuo compleanno? È vero. Verissimo. E allora perché nessuno viene a baciarmi le mani come si fa con i santi? Auguri! Di che? Così, in genere. Possiamo parlare? Volete parlare? Lo sapete che qua i muti vivono di più? Sì, lo sappiamo. Però noi dobbiamo parlare comunque, perché io sono preoccupato. Per cosa? Perché sembra che qui ormai le decisioni le prenda qualcun altro, non più tu, e questo è un problema. Qual è il problema? Che un altro decida al tuo posto, questo è il problema. No, non è questo il problema. Allora che cosa volete da me? Come? Qui non si capisce più niente, dicono che voi non comandate più. Non so se riesco a spiegarmi. Noi con quest'altro che comanda abbiamo anche provato a parlare. Avete parlato? Lo sapete che qua i muti... Abbiamo provato a parlare, solo provato, lo giuro. Ma non abbiamo potuto risolvere niente, perché non si capisce chi è questo che decide. Ma questa persona, questo che avete... Provato a parlare. A parlare. Come ha parlato questa persona? Non mi sono spiegato. Allora, non abbiamo parlato, no? Abbiamo provato a parlare. In giro si dice che... Che si dice in giro? Che voi siete solo un... Solo un... Io non lo so se posso permettermi di riferire. Che ormai non capisci più niente, che non conti più niente. Calma, pazienza. Questo si dice in giro. Io vi chiedo scusa, come potevo dirvi queste cose? E stiamo zitti adesso. Io vi chiedo scusa con la faccia sottoterra. Io non conto più niente. Con la faccia sottoterra vi chiedo scusa. E se fosse... Se fosse vero che io non conto più niente? Succede. All'inizio uno non riesce a farsene una ragione, ma poi capisce. E anch'io ho capito molto tempo fa. Poi quello che ho capito l'ho dimenticato e quindi non serve più. Voi adesso lo sapete chi è questo che comanda? No, non lo sappiamo. E allora? Va bene così? A te sta bene? Cioè ti sta bene che un altro decida al tuo posto? Non vuoi nemmeno sapere chi è? Chi è chi? Mamma. Si può sapere che cosa volete da me? Ma come, che vogliamo? Non volete niente? No, non vogliamo niente. E allora lasciatemi ritirare, sono stanco. Vai a riposarti, noi ti aspettiamo qua. Non basta riposarsi e non serve a niente aspettare. Maestà, maestà, lo vedi come è diventato? Lo hai visto? Avrà avuto un mancamento. Che manca? Un vuoto di memoria momentaneo. Quelle passeggere. Come farebbe? Uno che non ricorda niente a fare il re. Perché che ci vuole? Non è prendere decisioni, che è difficile, e farle, metterle in pratica. Capisce o no? Sì, ma uno che deve decidere, quello più si dimentica, più comanda senza pensieri, ma capisci? Uno che comanda deve ricordare tutto, ogni faccia, ogni parola, e deve decidere sempre invece cosa mettere da parte e cosa no. Deve ricordare e scegliere, altrimenti non è come dici tu. Quando sei arrivato? Sono venuto solo a fargli auguri, stiamo andando via. No, aspetta, fai andare via lui. Non è necessario che io rimanga. Vattene. Sì. Non muoverti, andremo via insieme. Ditemi voi, io sono a disposizione. Dobbiamo parlare? Vattene. E ora io vado. Non abbiamo segreti. Tu puoi parlare davanti a lui. Rimango. Sono questioni di famiglia. Deve andare. Con tutto il rispetto, ecco sì, io a questo punto mi rimetto alla volontà del cielo e la finiamo. Non abbiamo niente da dirci. E invece sì, e dobbiamo farlo adesso. Vattene. Io mi cammino. Se ci sono problemi, mi fate sapere, mi fermo, va bene? Non possiamo più aspettare. Perché? Cos'è cambiato? È cambiato che io non voglio starti lontano. Da quando? Da quando mio fratello è ridotto così? Ma lui non è niente. Non è niente. Io e te. Possiamo essere quello che vogliamo. Perché? Perché ti serve? E se anche fosse? Non ti starebbe bene comunque? Abbiamo sentimento perché abbiamo volontà. È questo che volevi dirmi? È così che deve andare. Non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta? E chi lo dice che non abbiamo scelta? Ma come fai ad essere sempre così decisa, così chiara? Ecco, così esatta? A volte lo sai che mi sembri stupida? Perché solo gli stupidi sanno sempre cos'è giusto. Io invece non lo so mai. E più passa il tempo, guarda, più capisco le cose e io meno so cos'è giusto. A te non capita mai di sbagliare? Non ti sfiora mai il pensiero che forse la cosa da fare era un'altra? Ma com'è possibile? Come? Anche i sentimenti decidi. Io no. E non voglio cominciare adesso. Chi siete? Tua moglie. Tuo figlio. E che volete? Papà, ti senti bene oggi? Sempre bene, altrimenti finisce tutto. E tu? Sto bene. Perché sei venuto? Così, per vedere come sta. Sto bene, mi sento bene. Senti, senti, tu devi rimanere qua. Ma lasciala restare, non fa niente. No, no, dobbiamo parlare, papà, lasciala andare. Sono tua madre, non puoi cacciarmi così. E quella ha detto che è tua madre, che vogliamo fare? E dille di andare. Ma perché deve andare? Chi sei tu per dire che lei deve andare? Papà, sono tuo figlio. E perché mi lasci sempre solo se sei mio figlio? Perché? Perché? Perché nessuno ti deve vedere in questo stato. In quale stato? In questo, nello stato in cui sei, nella tua malattia. Che malattia? Ma non ti ricordi che io sono tuo figlio? Capita di non ricordare. È vero, capitano cose strane. Questa notte io sono caduto. Non dire niente a nessuno. Non lo so come sia successo. Forse, non lo so. Non dire niente a nessuno. Secondo te che cosa mi sta succedendo? Ecco, bravo, adesso vattene. Se quella è tua madre, tu non devi cacciarla. Non te l'ho insegnato questo? Sì, sì, papà, me l'ha insegnato questo. E chi altro ti ho insegnato? Cosa, devo mettermi a fare l'elenco? Non ho voglia, eh? Non ho voglia, voglio che lei se ne vada. Non voglio che lei rimanga qui quando noi due parliamo. Ti ho insegnato che non bisogna gridare, che chi grida è debole. Sì, sì, anche questo. E poi? Ti ho detto che non ho voglia. Che altro ti ho insegnato? Che bisogna trattare i disperati al pari dei forti. Bravo! Che il pericolo è nelle bocche che sanno adulare. Che avere potere è la maggiore delle sfortune, ma uno la propria sfortuna se la deve portare addosso con dignità. E ti ho mai detto che il silenzio è l'alleato del comando? No, mai. Il silenzio è l'alleato del comando, te l'ho mai detto? No, papà, non me l'hai mai detto. E ti ho mai detto che ci sono due alleati, il comando e il silenzio, te l'ho mai detto? Sì, me l'hai detto. Oh, bene, ricorda e impara, è quello che fanno i figli. Mi è venuta sete. Papà, tu devi imparare tutto. I figli non basta farli, bisogna finirli. Ogni volta che aumenterà il tuo potere, il veleno che vorranno darti sarà sempre più forte. Bisogna avere l'antidoto, e quello sta solo nella conoscenza, in quelle cose che fanno di un uomo normale un uomo finito. E tu devi ancora imparare. Papà, ma che cosa stai dicendo? Prima di prendere il mio posto, tu devi imparare tutto. Lo vedi come è diventato? Tu hai promesso di volergli bene sempre. No, no, io ho fatto promessa a un uomo che non c'è più. Non ho promesso niente a lui. Io devo sopportarlo perché è malato. E tu gli stai dietro. Dietro a questo vecchio che non si decide a morire e a lasciarmi in pace. Io non sono obbligata a volergli bene. E neanche tu lo sei. Ha solo cambiato faccia. Ha solo cambiato malattia, però lì sotto c'è la stessa persona che tu hai sposato, che io ho imparato a conoscere. Lo vedi che quello lì è tuo marito? Non ce li hai gli occhi per vedere. No, è anche colpa tua se è diventato così. No, io non ci posso fare più niente, va bene. Ma se tu sai fare tutto quello che decidi. Io non voglio, lo capisci? Non voglio toccarla quella carne appesa, perché non voglio ricordarmi come adesso. Basta, stai zitta! Non ti voglio sentire più! Io questa notte sono caduto. Non dite niente a nessuno. Papà! Che ci stai facendo? Niente. Ti stai approfittando della malattia? È così? Io ti avviso, se qui succede qualcosa... Niente, io... non gli sto facendo niente! Ma perché per una volta non puoi stare dalla mia parte? Perché? Perché tu non sei mai stata dalla mia! Non è più tuo padre. Non è più l'uomo che era prima. Ed è per questo che va protetto! Dio mio! Ah, ma se io ce l'avessi una madre, capirebbe lei da sola. Ma ce l'hai una madre? Ah, sì? Dov'è? Sei tu? Da quando? Cosa hai fatto per essere mia madre? Ti sei sentita in colpa qualche volta? Hai pianto qualche volta? Io ci ho provato. E non basta. Io non ci starò mai dalla tua parte. E quello lì, d'ora in poi, nessuno deve vederlo così. È chiaro? Chi sei? Sono tua moglie, tua moglie. Dimmi una cosa, come marito e moglie, noi consumiamo Noi consumammo tutto. Peccato. C'è tuo fratello che aspetta. Che vuole mio fratello da me? Non lo so, è venuto anche prima. È già venuto? Sì. E perché non mi ricordo? Perché non mi ricordo più niente? Io mi voglio dare il pugno in testa quando non ricordo. Che mi succede? È normale? No, non è normale. Tu non eri così. Non sei mai stato così. Io mi metto davanti allo specchio e mi sforzo. Mi dico che devo ricordare, e invece poi dimentico tutto. Io lo so che c'è qualcosa che non ricordo, ma non ricordo cos'è. C'è tuo fratello ad aspettare. Che vuole mio fratello? Non lo so, è venuto anche prima. Caccialo! No! Non voglio parlare con lui, devi cacciarlo! E invece ti devono vedere tutti. Lo devono sapere veramente come stanno le cose. Da qualche parte bisogna cominciare. Da qualche parte bisogna cominciare. Maestà? Sì, maestà, vi sentite meglio? Mi sento bene. Possiamo? Sedetevi. Sedetevi! Allora, che cosa volete da me? Ci hanno fatto una visita. Ah, bene, come state? Chi? Ma non mi hanno fatto una visita. Non una visita! Che visita gli hanno fatto a questi? Ci hanno detto che chi comanda è solo il tuo portavoce, ma noi sappiamo che non è vero. Questo non vuol far sapere il tuo nome, mai più in alto di te. Dicono che tu sei solo un vecchio malato e non conti più niente. Hai sentito? E se non ti tolgono di mezzo è perché fai pena. Tu fai pena? Perché la tua parola pure non vale niente. Hai sentito quello che hanno detto? Io ho provato a difenderti, ho provato a dire che tu invece sei ancora come sempre. Io ci ho provato a difenderti. Hanno detto che la tua parola non vale più niente. Dicono che non capite più niente. Con tutto il rispetto, noi lo sappiamo che non è vero. Ma voi capite benissimo tutto. Dico bene, non l'abbiamo visto anche prima. Ma a parte qualche momento, chi non ha qualche momento in cui non si ricorda? Voi siete ancora nel pieno della vostra forza, dico bene. Poi, si vede dallo sguardo che avete. Io quando vi guardate, con tutto il rispetto, mi tremano le ginocchia di fronte alla vostra forza, lo giuro. Voi lo sapete chi è questo che comanda? Voi siete, no? Voi comandate tutto, non è vero quello che dicono in giro. Voi siete, come dire, siete il tutto, siete. Lo sapete chi è? No, non lo sappiamo. Allora va bene, da chi devo difendermi? Da uno che non ha nemmeno il nome. E non preoccupatevi, le cose vanno come devono andare. Questi due chi li ha fatti entrare? Ti avevo detto che quello così non lo deve vedere più nessuno. Da quanto tempo state qua? Che avete visto? Noi non abbiamo visto niente. Nessuno doveva vederlo così. Voi da qua oggi non uscite. Noi non abbiamo fatto niente, perché adesso non noi... Tu chi sei? Sono tuo figlio io. E io ti ho mai parlato di silenzio e di comando? Sì, me l'hai detto, papà. Che cosa avete visto da quando state qua? Niente! Non abbiamo visto niente. E se abbiamo visto, non ci ricordiamo. Dovete stare tranquillo, perché noi adesso ce ne andiamo e non ne parliamo più. Da quando vieni qua dentro a comandare? Papà, te non ti deve vedere più nessuno, va bene? Sei tu che qui dentro non ci devi mettere più piede. Ma stai zitta, stai... Io non posso più reggere il gioco. Non me ne siete neanche accorti. Ma di cosa? Di cosa si deve accorgere uno? Di niente è presto per accorgersi. Sono mesi che io sono diventato la tua voce. No, tu non hai nessun diritto di prendere il suo posto. Tu la devi finire di parlare quando ci sono io. Io ti devo torcere la testa per le mancanze che mi fai. Come devo fare con te? Le figure che mi fai fare. Io non me lo posso permettere di avere un padre in questa condizione. Io ti voglio bene, papà, come un figlio. Però tu ti dimentichi le cose. E io che cosa devo fare? C'era solo una maniera per proteggerti ed era quella di mancarti di rispetto e di mettermi al tuo posto. Io adesso comando tutto, io, non tu, nemmeno voi due. È troppo presto per cambiare le regole. Lo sai che io decido che cosa si sa di te in giro, lo sai, perché non si può sapere la verità. Solo così potevo proteggerti, fare finta che le decisioni erano ancora le tue e la voce era la mia, però adesso non posso più fare finta di niente, adesso lo sanno questi due, lo sa tuo fratello che non conti più niente, adesso devono saperlo tutti. Non devono saperlo tutti! Sì, perché lo sanno questi due! È presto! Tu sei mio padre, ma lo vedi quello che sei diventato? Io sono diventato quello che ho voluto! Tu non capisci! È venuto qualcuno a farti gli auguri oggi? Non viene nessuno. Perché io non faccio più avvicinare nessuno. Io non me lo posso permettere di avere un padre come te. Tu sei diventato un vecchio da curare. Io ho deciso di diventare vecchio. Ma cosa dici? Cosa dici, papà? Chi è che decide di diventare vecchio? Nessuno. Non gridare. Te l'ho insegnato che non bisogna gridare, che i deboli gridano. Papà, se questi due vanno in giro e parlano e dicono come ti hanno visto, tu lo sai che cosa ti succede, vero? Adesso tutti devono sapere che al tuo posto ci sono io. Non deve saperlo nessuno. Io mi vergogno per come sei diventato. E voglio che tutti si ricordino di te per come eri prima, eh? Perché sei mio padre, se questi due vanno in giro e parlano e dicono come ti hanno visto, tu lo sai che cosa succede, vero? No, noi e le tombe siamo la stessa cosa! Ma voi non siete tombe, non ancora! Scusate, no, non ho capito, per caso volete dire... Se si deve sapere, lo devo fare sapere io. Te lo dico in faccia. Tu da oggi non comandi più niente. Tu non avrai più la moglie del capo. Voi due... Sifrit! Non è finito. Vuoi approfittare della mamma tu? Ti vuoi prendere il suo posto con la scusa di proteggerlo, ma non è da che c'è sul caso. Non è che lo decido io come vanno le cose. Tu sei un ragazzino! Te un anziboom! Tu sei il contrario che cavaliesi in cacamman! Tu grida, arrabbiati, si sbaglia! E c'è il giusto, sei tu, un frutto che l'hanno condannato! Sono stato al suo servizio, ma l'ho deciso io, ma va a scaccanci delle cose a fare in un altro modo! Allora mi vuoi sfidare? Sei tu che vuoi sfidarmi, non la fussa a fe! Io potrei dirti delle cose che attirano già la fe, a se per tal! E se non lo faccio, sono il peccato a me combino! No, guarda, sono dunque! Non un momento! Portando nel buon momento! Claudio, non è mai arrivato il tuo momento, sai perché? Perché? Perché tu non sei all'altezza! Una parola. Una parola. E vedi quello che ti succede, eh? Io vi giuro che sono più muto di una statua. Tu sei un cane che scomi non si faccio una meglio. Sai perché? Perché hai paura, se hai paura, sai di non valere niente. Oh! Ti devo avere paura, Avastro, agnù! Di quel vecchio voi non mi servite. Avastro. Avete fatto la vostra bella commedia, che cosa siete diventati, eh? Niente! Oh. Basta adesso, stai zitto! Non prendo più ordini da te. Stai zitto, ho detto! Non sono diventato niente. Io sono diventato tutto quello che ho voluto. Non capisci? Hai fatto diventare tutto difficile. Io adesso come faccio? Ti ho mai insegnato che il silenzio e il comando sono alleati? Adesso io come faccio? Tu, papà, non devi fare più niente. Io ho detto di stare zitto. Dammi una pillola. Per che cosa? Per quando i figli ti trattano così. Non devi rimanere solo. Non si può comandare da soli. Fammi stare dalla tua parte. Devi fidarti di qualcuno. Di te mi devo fidare. Sono tua madre. Adesso sei mia madre. Sono nato adesso io. C'è stato un momento in cui ho sentito di essere tua madre. Non mi interessa. Eri seduto su una sedia, qui. Non voglio saperlo. Io ti ho guardato. E mi è sembrato che fossi indifeso, come adesso. Ma io non sono indifeso, lo volete capire che io comando? Avrei voluto proteggerti come voglio fare adesso. Non è questo che fanno le madri? Non passano la vita intera a mortificarsi? per non aver saputo proteggere i figli. Potevi fingere la virtù se non ce l'avevi. Posso farlo oggi? Ne hai bisogno? Oggi no, oggi non più. Siamo cresciuti, tutti, troppo. Tu da oggi non ti occupi più di lui. Non una parola di quello che avete visto. Nemmeno sotto tortura, lo giuro. State tranquillo, che la bocca si è impastata. Non posso parlare nemmeno a volerlo. State sicuro su di me. Io sono una persona fidata, non parlo nemmeno se mi pagano. Sicuro, buona giornata. Dovevo farlo prima. Fingere la virtù e costringermi a sentirmi madre. Ma io non lo sono mai stata. È contro natura. Forse. Ma io non sono nata madre. Non è naturale. Non è. Ma chi è naturale? Adesso ha ragione lui. Siamo cresciuti troppo. E dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Scusate, siccome vedo che la cosa si fa intima, io magari... Non c'è niente di intimo, puoi restare. Vabbè, allora come l'ho detto, resto. È meglio se va via. Come volete voi, vado via. Non abbiamo niente da dirci, resta. Resto volentieri. E invece te ne devi andare subito. Sentite, io mi trovo veramente in un gravissimo imbarazzo. Che devo fare? Ha preso il posto di suo padre. E noi che facciamo? Che facciamo? Tuo fratello almeno in questi anni ti ha rispettato, mio figlio non lo farebbe! Ma tu da me che vuoi? Che vuoi? Voglio che sia tu a prendere il suo posto! Però perché io prendo il posto di mio fratello dovranno morire! Ficcatelo in testa! Dovranno morire! Lui è tuo figlio! Le cose necessarie vanno fatte. Chi sei? Tua moglie. E quello? E tuo fratello. Che vuole mio fratello? Sono venuto per farti gli auguri per il tuo compleanno. Dai, il mio compleanno! Bene, sono contento! Chi altri è venuto? Nostro figlio. Bravo! Bravo, bravo. Ha detto che tu non comandi più niente. Ha detto che tu gli fai schifo. Chi? Tuo figlio! È vero! Ha detto che ha preso il tuo posto, no? Perché? Ah, forse... Quanti anni ha? Forse a una certa età è normale! No, non è normale! Non è normale niente! Gli diamo da mangiare e diventano grossi come dei serpenti schifosi! Non è normale! Solo delle pozzanghere che non valgono niente. Il figlio si è spogliato da figlio, eh? È diventato un nemico! E tu con i nemici puoi fare una sola cosa. Ma un figlio non diventa mai un nemico vero. Ha preso il tuo posto. Ti ha trattato come un vecchio malato. Me? Sì. Sei sicura? Cosa facciamo adesso? Ah, non lo so che dobbiamo fare adesso. Il figlio si è spogliato da figlio. Ti rinnega da figlio. Tu che devi fare? Non devo fare niente. Tuo figlio si è preso tutto. Un figlio che si prende tutto, che non lascia niente. Un figlio che spoglia il padre, tu che puoi fare? E che posso fare? Mica posso ammazzarlo! Quante volte l'hai fatto? Con quanta gente? Che cosa c'è di diverso? Tu che dici? Decidi da che parte stare. Deve deciderlo lui cosa è giusto. E come si fa a sapere che cosa è giusto? Tu l'hai sempre saputo. L'hai sempre saputo e senza questa confusione in testa avresti già dato l'ordine. Ti conosco io. Nemmeno non avrei saputo niente. Avrei saputo che mio figlio è morto, che è stato ucciso. Tu devi solo prendere l'anima di padre che hai e la devi mettere zitta, zitta, zitta, zitta in un angolo. Vuole prendersi tutto. E noi che facciamo noi? Chi vuole prendersi tutto? Tuo figlio! E noi dove andiamo? Ma che cosa volete da me? Io dimentico le cose, non capisco niente. Ma le cose devono capirle gli altri, tu devi solo deciderle. Il comando a questo serve, a continuare a comandare. Tuo figlio non doveva mettersi in mezzo. Tu figlio non ce l'hai più, ti devi difendere. Sei il re e fai il re, fai il re. Ha paura, eh? Non lo voglio fare più il re! Mi sono stancato. Ti sei stancato? Ti sei stancato? La scalata gli è riuscita! Ma scalare è facile, si arriva in cima alla montagna e lì ti vedono tutti. Non puoi nasconderti dietro un albero, dietro una casa, perché in cima alla montagna non c'è niente, ma se sbagli una volta cadi. E lui ha sbagliato. Chi è che ha sbagliato? Quando si fa? Cosa? Nostro figlio, quando si fa? Che si deve fare a nostro figlio? Te lo dico io, oggi si deve fare. Oggi? Oggi, il giorno del tuo compleanno. E va bene, oggi, ma devi farlo tu. Che cosa? Ma non lo so, tu di che stavi parlando? Di togliere di mezzo tuo figlio. E fallo tu, vuoi farlo oggi, bene. Dovrai averlo di fronte, però. Immagina che sia adesso, qui, in questo momento. Io non posso. Perché? Perché io... Metti da parte quel rimasuglio dell'anima di madre e fallo, che ci vuole! No. Perché? Perché dopo tutto sei madre? Io non lo so come ci sono arrivata a questo. Io non lo so cosa ho sbagliato. Non lo so come è possibile essere arrivata a progettare la morte di mio figlio. Io non so dove è nato l'errore, che giorno, che ora, che minuto, che pensiero. Io non so niente di tutto questo. E ho paura. Questa non è la mia vita. Cioè, io non la voglio così. E non ne avrò un'altra. Non ne avrò più di giornate come questa. Non avrò mai più l'età che ho adesso. E non posso continuare a lasciare che le cose succedano senza provare a cambiarle. Le giornate mi passano tutte davanti. E io non ci sono in quelle giornate. Io sto solo a guardarle. Non sono la mia vita, non sono niente per me. È solo tempo perso. Non mi interessa essere madre. Non mi interessa essere moglie, non mi interessa nient'altro che vivere le mie giornate senza dover essere qualcosa. Vuoi giudicarmi per questo? Fai pure, non mi interessa. È contro natura? Non mi interessa. Io non sono nata madre, né moglie, né nient'altro che me. E le cose necessarie vanno fatte. dovrai farlo tu. Non deve farlo nessuno. Lui non può prendere il tuo posto, io mi devo difendere. Troverà lo stesso qualcuno, lo pagherai, tuo figlio sarà morto. È questo che vuoi? Cosa? È questo che vuoi? Io da bambino mi ricordo tutto. Ma cosa c'entra questo adesso? Devo andare a trovare mio padre, e tanto che non lo vedo. Ma non ci puoi andare. Perché? Perché nostro padre è morto. È morto nostro padre? Sì. Ma siamo sicuri? Sicurissimi, sì. Ma tu lo hai visto morto? Hai sentito l'odore del morto? No. Te l'hanno soltanto detto che è morto? Me l'hanno soltanto detto. E non si sono sistemate tutte le cose quando hanno detto che è morto? Ma che vuoi dire? Io? Che ho detto? Non possiamo dire che tuo figlio è morto perché... Ma non mio figlio! Non lui. Io? E tanto che differenza c'è? Io sono pronto. Mio padre diceva... che la morte arriva così. Tutta la stanchezza del mondo si prende le braccia, poi le gambe, poi fa un peso in mezzo al petto e poi sei morto. Il problema non è la morte, è la stanchezza. Tu non sei malato! Io sono malato! Tu non sei malato! Se mi avessero detto che mio padre era morto e io poi lo avessi visto come un fantasma, sarebbe stata la pazzia per me. Non avrei più potuto fare il re, avrebbe dovuto farlo qualcun altro. Tu, forse, non è la stessa cosa adesso? Dovremmo dire che sei morto. E poi lui ti dovrà vedere? E avere l'impressione di vedere il tuo fantasma. Chi? Nostro figlio! Dovrà pensare che tu sia morto! Questo dobbiamo fare. Io non ti capisco, abbiamo un figlio noi! Ma non ci crederà mai, non ci crederà mai, non serve a niente fare la commedia! Serve! Ve lo dico io che serve! È da sempre che noi facciamo commedie! Se siamo arrivati a questo punto, a questa età, è solo perché abbiamo fatto commedie, e nelle commedie, fidatevi, arriva sempre il momento in cui si deve uscire e andare via. Quindi è questo che tu vuoi, sparire e basta? Ma non c'entra niente quello che voglio, succede tutto senza che tu te ne accorgi, succede sempre, tu devi stare con lei, mio figlio è destinato alla morte e questa è una storia che non mi piace. Tu non sei malato! Io lo sono e la mia malattia salva tutti. No, no, tu hai deciso di essere malato, non lo hai deciso, tu rispondi di essere così. Di essere come? Ma che cosa dici? Non è possibile essere. Questo è il problema. Prendi i sentimenti di una tua giornata e prova a fissarli uno per uno dentro di te. Non ce la fai. Non è possibile. Non puoi essere nemmeno i sentimenti di quella giornata, perché domani ce ne saranno altri e tu diventerai un'altra cosa senza essere mai, se non in un solo piccolo momento. Ma quello non è essere. Io ho deciso di strapparmi adesso, com'è che si dice? Di strapparmi adesso dal tumulto della vita. Sì, così si dice, e di non provarci nemmeno a essere. Non c'è più il tempo per capire che cosa si è. Questa è la malattia e non c'è cura. Questa è la malattia? Che malattia? Adesso fai finta di non ricordare. Ma tu chi sei? Devo fare così. Devo stare con tua moglie? Ma che cosa volete da me? Chi siete voi? Allora diremo che tu sei morto. E non sarete più niente. Né tu né nostro figlio. Quando lo direte, io sarò morto per davvero. Scusate, non ho capito. Prima gli diciamo che è morto, poi glielo facciamo vedere vivo. Quando il padre verrà a trovarlo, lui dovrà pensare di trovarsi di fronte a un fantasma, a un'allucinazione, e si sentirà in colpa per non averlo protetto. Scusate, ma è morto o non è morto? Ma non è morto nessuno! E allora non ho capito niente, sentite bene a me, chi è morto? Tu sai tenere il gioco. Che gioco? Quando il re entrerà, tu devi fare finta di non vederlo, di non sentirlo. E perché? Perché deve sembrare un fantasma? Un fantasma? Tu devi fare finta di non vederlo. Ma perché proprio io? Non è meglio se mi tenete fuori da questa commedia? Che io dopo tutto non c'entro niente. No. Tu sei il pezzo che mancava. Agli occhi di mio figlio tu non hai alcun interesse. E sarai quello che dirà la verità. Di me potrà anche non fidarsi, ma di te si fiderà sicuramente. Sai tenere il gioco? Che gioco? Lo vedo ma non lo vedo, questo gioco? Semplice, no? Lui entra, io lo vedo, ma non lo vedo? Guarda che cambia tutto anche per te. In bene, volete dire? In bene, così voglio dire. Siamo sicuri? Sicuri. Ma vai a cercare il ragazzino, digli che suo padre è morto, accompagnalo qua. Ma perché ci devo andare proprio io? Non è una bella notizia che uno deve portare. La vuoi la vita migliore? Sì. E allora te la devi meritare. Vai, diglielo, accompagnalo qui. Maestà! Devi tenere il gioco. Ma non lo vedo, Che quando lo vedo mi fa impressione a vederlo. Me ne vado, scusate. Che è successo? Chi è morto? È morto il re? Chi è questo re? E tu? Sei morto tu? Io sono morto. Sì? Ti ricordi chi sono io? Tu sei... No, non mi ricordo. Io ero tua moglie. Eri, e poi che è successo? Poi tu sei morto. E io? Ti ricordi chi ero io? No, non lo so. Ero tuo fratello, non ti ricordi? Ma come faccio a ricordarmi tutte queste cose? E per questo sei morto. Per questo muoiono le persone. Perché non si ricordano di essere vive. Come è successo? Qualcuno ti ha dato del veleno. Del veleno? Sì, mentre dormivi. Come ti senti adesso? Oh, io mi sento bene, non mi sembra nemmeno di essere morto. E invece è così. Ma se io sono morto, ascoltami bene. Se io sono morto, perché ti sento? Perché questa non è la realtà. Qui è tutto finto. Qui è finto? Per voi forse, per voi è finto. Per me è vero tutto quello che accade qua. E se tu mi dici che io sono morto per davvero. Carne appesa. Non ti faccio più schifo adesso? Ma ce l'hai detto tu di fare così? Io? Non mi ricordo. No, l'hai detto tu. Io vi ho detto che sono morto. Ma com'è possibile? Ma se sono morto, come ho fatto a dirvi che sono morto? Non ci state capendo più niente. E non preoccupatevi. Fate quello che dovete fare. Non mi sentite in colpa. Io, forse, per salvare mio figlio, ho condannato voi due. Vi sembra che farmi morire sia farmi un torto? Non è così. Siete voi condannati a vivere comandando, che è la peggiore delle condanne, e ve l'ho data io. Non è questo che volevi? Sì, è questo che volevo, sì. E perché lo stai facendo? Non lo capisco, perché? Non devi capire, non è importante. È importante perché ci vado di mezzo io. Ci vai di mezzo? Prenderai il mio posto. È quello che hai sempre voluto. Non l'ho voluto. perché ho sempre pensato che il comando ti spettava. Non hai tenuto gli occhi addosso a lei? Ah, non l'hai sempre voluta a lei? È tua moglie. E allora? Tra poco non lo sarà più. Cosa sono queste tende? Cos'è successo? L'hanno ucciso. Chi? Con del veleno. Chi? Non lo sappiamo. Dov'è adesso? Adesso non serve che tu vada a trovarlo. Prima sarebbe servito. Prima dovevi esserci tu con lui a proteggerlo come ho provato a fare io. Non è vero. Però eri troppo occupato a prendere il suo posto. Io ho preso il suo posto per difenderlo. Ma tu non l'hai difeso. Tu hai lasciato che chissà quale schifo di persona si avvicinasse a tuo padre mentre dormiva e gli mettesse un veleno nell'orecchio. Tu hai lasciato che un povero vecchio venisse ucciso. Indifeso. Non è colpa tua. Dov'è adesso? Qua. Non puoi entrare, lo stanno preparando. Chi è che lo sta preparando? È compito mio farlo. Era compito tuo, ma tu non c'eri. C'è suo fratello con lui. No, io ci devo andare. Lo fanno passare. Con tutto il rispetto. C'è suo fratello, non puoi entrare. È stato lui. A fare cosa? Ad ammazzarlo, è stato lui! Cosa dici? È stato lui a trovarlo così! È stato lui a impedire che altri lo vedessero in quello stato! Tu dov'eri? A fare affari per conto della stessa persona che dovevi proteggere! Polonio, fammi passare! Non puoi entrare! Nessuno può entrare! Con tutto il rispetto! È una questione di rispetto! Ma tu non lo capisci, il rispetto? Ma io stavo al suo posto per proteggerlo! Tu dovevi essere accanto a lui! Non al suo posto! Che gli avete fatto? Tu che gli hai fatto? No, io non volevo fare niente. Io volevo che nessuno se lo ricordasse malato. Io volevo solo proteggerlo. Calmati. Scusa. Anna, ti ho detto calmati. Ci ho parlato. Poco prima che morisse voleva vederti. Io ho dovuto dire che tu non c'eri. Ma lui insisteva che fossi lì con lui. Si ricordava solo di te. Allora sono uscito, sono venuto a cercarti, ma tu non eri da nessuna parte. Sono tornato dopo poco, pochissimo tempo. Ho bussato, lui non rispondeva. A quel punto io sono entrato, l'ho trovato seduto su una sedia con questa boccetta accanto e non respirava, non si muoveva. Ed è colpa tua. Mamma! È colpa tua. Non è colpa mia. Basta, voglio vedere mio padre. Non potete vederlo, con tutto il rispetto. Perché non posso? Perché vostro padre è morto, è tutto morto. Non è morto, non vuol dire niente, è una parabola. No. Chiamatelo! Non possiamo chiamarlo, non verrà più! E è colpa di noi! Avete visto che... ti hanno detto che sei morto. Non è vero, mi hanno detto che sei morto. Ma cosa non è vero? Cosa? Che mio padre è morto, l'altro, lo vedete che avevo ragione. Ma chi è che vedi? Chi è che vedi là? Mio padre, là davanti a voi, a me, non lo vedi? Ma io non vedo nessuno. Tu non vedi niente. Io non vedo nessuno. Ah, e tu sei il fratello e non vedi niente. Se lo vedi e ti fa stare bene, parlagli. Chiedigli se vuole dirti qualcosa da morto. No. Com'è possibile che voi non lo vediate? È là! È davanti, è uguale a me! Io sono vivo, non è vero? Ma da dove dite che sta, precisamente? Dietro di te, girati, lo vedi. Io non vedo nessuno. Tranquillizzatevi, che poi passa, è una cosa... Tu non ci sei? Ma se io ti vedo... Parla, ho detto, non sei mio padre, chi sei? Non sono più tuo padre. Avete sentito? Io sono il fantasma di tuo padre. Ha detto che è il fantasma di mio padre. Se potessi raccontare i segreti della mia vita, ti direi cose di cui la più lieve ti strazierebbe l'anima. Ma il racconto delle cose che ho dovuto vivere non è per orecchi come i tuoi. Quello che ho dovuto fare io voglio risparmiarlo a te. Ascoltami. Se mi hai amato, non vendicare mai, mai la mia morte. Non vendicare? Mai, non devi farlo. Mai. Non vendicarmi, non servirà a niente. Loro prenderanno il posto che ti spetta e tu lascia andare, lascia stare. Non servirà cercare di lavare il loro letto incestuoso. Non c'è acqua che lavi quella colpa. Lascia che tutto ti passi sopra senza metterci un solo pensiero. Che cosa ti hanno tolto? La dittatura di una vita che io ho già vissuto e che non vale la pena difendere. Non vendicarmi mai. In nessun modo. Lascia loro la commedia del potere. Lascia che le loro vite si corrompano nel puzzo della carne che si deve mandare a morte, nel rimorso per le facce che non si è voluto salvare. Non vendicarmi mai. Vatti a preparare, vai, vatti a preparare, dobbiamo fare il funerale. Perché? Perché non ti devo vendicare? Perché non servirà a niente. Sì, ma io che cosa faccio se non ci provo, papà? Io non so fare altro. Dovevi stare zitto, darmi il tempo di preparare tutto, non l'hai fatto. Ma voi non lo sentite? Ma chi? Chi? Sei tu che fissi il vuoto e parli con l'aria, dove guardi? Lui, guarda. Ma dove? Non vedi niente. Niente, niente. Eppure vedo tutto ciò che è. È il frutto della tua pazzia, del delirio che crea queste immagini senza cose. No, non sono pazzie queste, no, io vedo come voi, io sento come voi. Cerca di scansare l'avvenire. Hai sentito? Ma cosa? Lascia andare, queste voci non sono vere. Mi hai spaccato il cuore in due. Così mi spacchi il cuore in due. Buttane via la parte peggiore. Buttane via la parte peggiore. E vivi più pura. Con l'altra metà. Lo capisci adesso che cosa significa? Butta via la parte peggiore, vivi più puro tu con l'altra metà. È la tua sola possibilità per evitare di ripetere sempre la stessa vita, lo stesso ruolo. Non vendicarmi. Mai. Ma io non so fare che questo. Tutti non sanno fare che questo. Vendetta, assassinio, potere. Da qualche parte bisogna cominciare a smettere. Così ti salvi. Dobbiamo solo cambiare fondale. Da un funerale a un matrimonio si va avanti. Chi è vittima rimane vittima. Chi ha vinto continua a farlo. No! Io non posso stare fermo. È il mio posto quello. Io non starò fermo a guardare mentre mi tolgono tutto. Tu sei morto. Se dici di essere morto, Sei deciso di essere morto. A me va bene così. Però io no. Io no, io non sono morto. Alzati, non è il tuo posto quello. È il suo posto, ce lo siamo guadagnato. Alzati, ho detto! Perché? Per lasciarlo a te? No. Perché quello è ancora il posto di mio padre. E tu, Claudio, non sei all'altezza. È giusto. Bravo, è giusto. Rendere a tuo padre questo ricordo è giusto, Amleto. Ma devi stare tranquillo, vedi tuo padre è morto. Non lo vedi, Amleto? Te ne devi fare una ragione, non devi vendicarti. Vedi, Amleto, il lutto ostinato e atteggiamento da ragazzini testardi non è un modo adulto di soffrire. È il segnale di un cuore fiacco, di un animo impaziente, di un intelletto semplice. E tu questo sei, Amleto. Lascia perdere, vedi, se è dolore che provi non serve a niente, è inutile ormai. Pensa a me come un padre, Amleto, ce la fai? Voi ve ne dovete andare, la faccenda si è chiusa e avete perso. Dico bene, caricatevi il morto e andate. Dico bene. Io mi devo vendicare. Solo così mi salvo. Andiamo. E dove? Ma se io sono morto? Non cercare più tuo padre. E non vendicarlo mai. Togliti dalla faccia quel colore pallido. Se non vuoi guardarmi da figlio, ti conviene guardarmi da amico. È legge di natura. Chi vive deve morire. Solo questo è rimasto. Solo questo è naturale. Perché dovremmo consumarci il cuore se sappiamo che è così? Ed è così per tutti. Non ne vale la pena. Chi ti rimane adesso? Solo io. Solo tua madre.